Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buonasera, buona domenica a tutti voi in contatto con il soundcheck di Radio 24 dal Groovemaster Studio. Buonasera da Giorgio Telesforo e buonasera al nostro ospite. Lo abbiamo annunciato la settimana scorsa quando qui in studio ero con mio padre, grande appassionato di jazz, che vanta anche l'amicizia con il nostro ospite, il meraviglioso sassofonista, tenore, soprano, arrangiatore, compositore, produttore, ma anche formidabile compagno di avventure, Max Ionata. Ciao Gegè, ciao a tutti. È un piacere rivederti e ritrovarti dopo diversi mesi, un po' che non ci vediamo, in grande forma. Quindi pur facendo tanti concerti sei riuscito a mantenere una linea, perché noi musicisti a cena non scherziamo. Beh sì, effettivamente quello è un momento, sai, importantissimo del nostro concerto. Se non c'è quel momento là, non c'è, come dire... Sembra che la musica non possa prendere. A volte quando abbiamo fatto concerti insieme tu volevi cenare prima del concerto, sempre. Io invece da cantante preferisco mangiare dopo. Oddio, anche i sassofonisti a volte spesso preferiscono dopo, però insomma io sempre preferisco. Rendi di più a stomaco pieno. Bravo. Sì, dovete sapere, miei cari amici, che una delle cose più importanti prima di una tournée è capire le varie problematiche che si possono ritrovare fra i vari elementi, ognuno con esigenze diverse, cioè il vegetariano, il celiaco, chi segue un certo tipo di religione non mangia certi animali, chi non li mangia affatto, insomma si sta molto attenti anche a questo. Comunque parliamo di musica. Max Ionata è da noi per presentarci il nuovo album, si intitola Rewind, come dicevamo, prodotto per Giando Music e Via Veneto, album che ti vede protagonista con il tuo strumento, con un organico dove il suono viene regalato dalla presenza dell'organo Hammond. Assolutamente sì, l'organo Hammond in questo caso è veramente il re, diciamo, della sonorità, perché comunque con la sua sonorità unica riesce a sostenere tutti i brani che hanno un carattere sempre un po' diverso tra loro. E io ho la fortuna, come tu sai benissimo, perché abbiamo condiviso questo progetto insieme fino a qualche mese fa, e con Alberto Currisi, che insomma è un bravissimo giovane, bravissimo Hammondista, con il quale insomma si riesce ad esprimere tutto quello che... Sì, credo che Alberto insieme a Leonardo Corradi rappresenti la nuova generazione degli organisti italiani. Sicuramente sì, perché diciamo, manca il supporto del basso in questo caso, ma sicuramente se l'organista è bravo, questa cosa qui non l'avverti per niente. Ecco, io direi di ascoltare subito qualcosa, ricordando che alla batteria c'è uno dei migliori musicisti europei, anche un eccellente vibrafonista. Sì. Beh, lui è uno dei più conosciuti e più importanti musicisti olandesi, ha questo nome che Gegè vuole che pronunci. Sì, fallo tu. Si chiama Fritz Landsbergen. Fritz Landsbergen, Alberto Currisi all'organo Hammond, Max Ionata al tenore. Il brano è quello che apre questo nuovo album, si intitola Et Vix. Nuovo album per Max Ionata, organ trio con Alberto Currisi all'organo, Fritz Landsberg. Ci sono andato vicino però, Sì, molto vicino. Fritz Landsbergen. Fritz Landsbergen alla batteria e anche al vibrafono in alcune tracce per Via Veneto e quindi Giando Music. Max è il nostro ospite. Che cosa stai ascoltando in questo periodo? Ah, questa è una bella domanda. Dunque, mi sto divertendo ad ascoltare molto gli streaming dello Smalls. Ecco, lo Smalls è uno dei club più interessanti a New York, ormai da diversi anni, perché è lì che si incontrano di notte i musicisti più forti di New York, che fanno jam session ma anche progetti originali. E questa cosa mi piace perché mi sa di qualcosa di vero, no? Che stai ascoltando anche, non so, anche così a casa, in cuffia, sembra di essere là. Il suono che viene fuori da queste gemme, da questi concerti live allo Smalls di New York, qual è? Che idea ti sei fatto del suono nuovo di New York? Beh, guarda, io credo che ci sia tanto fermento un po' in tutte le cose a New York, come sempre, ma forse in questo momento ancora di più, perché si stanno un po' mischiando tutti i generi e sta venendo fuori, secondo me, una cosa nuova e interessante che ci avrà ancora un seguito interessante e grande. E allora voglio sottolineare proprio con la musica quello che stai dicendo, con il disco nuovissimo per Blue Note Records di Marcus Strickland, che è uno dei miei sassofonisti contemporanei preferiti. L'album si intitola Nihil Novi, che in latino, frase latina, che significa nothing new, ovvero niente di nuovo. E invece c'è molto di nuovo in questo album di Marcus Strickland, con musicisti meravigliosi, fra i quali anche Keon Harold, uno dei nuovi trombettisti della scena newyorkese, molto impegnato nel versante contemporary R&B, suona con D'Angelo, Erika Badu, Common, poi c'è Kyle Miles al basso elettrico, Charles Hines alla batteria, Mitch Henry all'organo e alle tastiere, e poi l'apparizione anche di Jim Baylor, eccellente cantante, Pino Palladino, Michelle DeGeo Osello, insomma un cast formidabile per un bellissimo disco che dovete assolutamente ascoltare. Marcus Strickland al soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. Yourself, heedless time. E in questo brano intitolato Who Am I, con la voce di Greta Panettieri per il progetto Fun Slow Ride, c'è anche la presenza di Max Ionata con il suo sax soprano. Io ti ringrazio perché ho prodotto questo progetto internazionale e tra l'altro te lo voglio anticipare, il 24 giugno ci sarà la pubblicazione internazionale per Rope Dope Records New York, quindi meraviglia, distribuzione negli Stati Uniti, Canada, Australia, Sud America e Asia al completo. Queste una bella soddisfazione. Queste sono notizie che vanno. No, una bella soddisfazione perché essere riusciti a chiudere con Rope Dope, che è una delle etichette più interessanti e importanti in questo momento, non è neanche facile, insomma, non è facile, è una bella cosa per tutti noi, dai. Auguri Gege. Grazie. auguri a te anche perché il disco il disco che hai fatto è veramente bello, insomma. Grazie. Ne abbiamo parlato, si intitola Rewind, lo ripeto perché è un disco che troverete già pubblicato su iTunes e naturalmente quest'estate che fai? Lo porti in giro o sei impegnato in altri versanti? Lo porto in giro, sì, ovviamente abbiamo già diversi appuntamenti fissati e alcuni ancora, diciamo, in fase di trattativa, ma sicuramente uno è dopodomani, no? Il 31. Mm. 31 maggio facciamo un evento molto particolare. A Roma? Suoneremo a Roma, nella stazione metro di Repubblica. Stazione metro di Piazza della Repubblica. Piazza della Repubblica, okay. Che si chiama la metro che si chiama Repubblica, e suoneremo lì un concerto intero, come fosse... Non so, una location, non lo so come sarà. Però cerco di spiegarlo, ma non l'ha fatto ancora mai nessuno. Vengo sicuramente a salutare Alberto e Jonathan Fritzburger alla batteria. C'è lui, no? Sì, Landsberg. Landsberg. Allora, ascoltiamo ancora un altro brano da Rewind di Max Ionata e Bob Smoot. A chi hai dedicato questo brano? Bob Smoot, perché? Questo brano è dedicato al modo di comporre di Bob Minzer, che credo, come dire, perlomeno a me ha ispirato questo... Bob Minzer o Bob Berg? No, in questo caso Bob Minzer. Sì, assolutamente. Però anche Bob Berg non mi dispiace affatto, per carità. Diciamo, ha una serie di Bob. Una serie di Bob. Il Bob a due. Un Bob. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Sempre Max Ionata con il suo organ trio, e infatti è presente nel Groovemaster Studio per presentare questo nuovo album intitolato Rewind, con Alberto Gurrisi all'organo, e adesso è una parola a ricordare il nome di Charleston Katzburger. No. Allora, è Fritz Landsberg. No, meraviglioso, che in questo brano suona il vibrafono e alla batteria hai chiamato Amedeo Ariano. Sì, Amedeo Ariano, nostra vecchia conoscenza, perché era il batterista del trio che col quale abbiamo suonato insieme. Sì, in questo brano tra l'altro utilizzi un po' di effettistica. In questo brano utilizzo un po' di effettistica e, se ti ricordi, qualche anno fa, quando arrivai con una macchinetta da mettere a terra, cioè tu mi guardasti fosse l'aerosol. Bravo. Per una mezz'oretta mi guardasti così fisso, dici: ma voglio vedere dove vuole arrivare. Io montai tutto la cosa e cominciai a usare questi effetti nel sassofono. Tu dicesti: Max, devi continuare su questa strada perché è una cosa che secondo me potrebbe darti soddisfazioni. Ho continuato, mi sono, diciamo, come dire, speso un po' anche mentalmente. Sì, perché bisogna studiare anche quello. Studiare, poi soprattutto per un sassofonista, quelle sono cose proprio assolutamente nuove. E ho iniziato a mettere altre macchinette a fianco a quella, finché, insomma, ho trovato questo suono che in qualche modo ti ho voluto anche dedicare. Perché... Lo devo dire, il brano si intitolava e si intitola Mr. GT, e ti ringrazio per la dedica. Sì, ti ringrazio. Beh, una figura, dice, è una cosa che mi è venuta proprio spontanea. Cioè, questo brano era tuo. grazie. Sì, sì. Va bene, siamo agli sgoccioli, mio caro Max. Io intanto vorrei venire a vederti dal vivo lì alla fermata della metropolitana di Piazza Repubblica. Della Repubblica, qui a Roma. Quando? Fra un paio di giorni? Dopodomani, il 31, suoneremo alle 6 del pomeriggio, credo, qualcosa del genere. Ci sarò sicuramente, e poi, insomma, ti auguro di trascorrere in un'estate meravigliosa, piena di musica, di concerti. Grazie. Magari riusciremo a fare anche qualcosa insieme, perché per me è sempre un piacere, e lo devo dire, imparo sempre tanto. tanto quando sei sul palco con me. Sì. Guarda, succede la stessa cosa a me, evidentemente questo è un fatto assolutamente reciproco. Se no. Vabbè, adesso alla fine della trasmissione ci abbracciamo. Ci baciamo pure. Anzi, dai. Ti dedico questo brano che si intitola You Are So Beautiful. Wow. Sì, guarda, lo ricorderai questa melodia bellissima scritta da Billy Preston e sì. Portata al successo da Joe Cocker, ma qui la voce è quella di Norah Jones, che viene coinvolta nel nuovo album del formidabile Charles Lloyd, quindi fantastico. Ti dedico uno dei tuoi sassofonisti preferiti, Charles Lloyd and the Marvels per Blue Note, con una tua conoscenza, il bravissimo Ruben Rogers al contrabbasso, Ruben Eric Harland alla batteria, Bill Frisell alla chitarra, un disco splendido. Grandioso. Allora, a tutti voi buona serata e buona musica da Gigi Telesforo, grazie a Max Ionata. Grazie a te Gigi, grazie a tutti.